edizione. Sono le 6:12:48. Innanzitutto un'altra notizia che arriva dall'India, dove si trova, come vi dicevamo da questa mattina, il ministro degli esteri Giulio Terzi, tra l'altro in una giornata nella quale in India è proclamato uno sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita, insomma contro l'inflazione. Che cosa dice il ministro Terzi? Ribadisce quella che è la posizione italiana, ossia che la giurisdizione sulla vicenda dei due militari italiani che sono stati fermati, come sapete, per la morte di due pescatori è una giurisdizione italiana, perché, dice il ministro Terzi, il fatto è avvenuto in acque internazionali. Il governo indiano invece ritiene che prevalga la giurisdizione di questo paese. Spero che nella prosecuzione, aggiunge, delle indagini si confermerà lo spirito collaborativo e positivo che è emerso finora con nostri esperti in rossa messi alla prova balistica, che si doveva concludere oggi, ma, e questa anche è una notizia, è slittata appunto. La prova balistica ci vorrà ancora qualche ora, se non qualche giorno, evidentemente. Sono le 6:14. Ci sentiamo che cosa succede su strade e autostrade. Ci ritroviamo subito dopo per fare un punto su quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Strade in diretta. Buongiorno dalla redazione di Strade in diretta. È la protesta dei Notav che ha reso necessaria la chiusura della 32, la Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Ulx-Ovest nelle due direzioni. Si è appena verificato un incidente in entrata a Genova sulla 10, la Genova a Ventimiglia tra Pegli e aeroporto. E c'è un incidente cui prestare attenzione anche in Abruzzo sulla 14 Adriatica verso Pescara tra Vasto Nord e Val di Sangro. Continua a soffiare un forte vento tra Campania, Basilicata e Calabria, il transito è sconsigliato ai veicoli con telone, ai furgoni e ai caravans. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. I mercati finanziari si muovono ogni giorno, per questo bisogna affidarsi ad un trading innovativo. Con i CFD di IG Markets è possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime. La piattaforma di IG Markets non comporta alcun canone di utilizzo, dà accesso ad oltre 20 borse internazionali e permette di fare trading sui titoli europei pagando solo una commissione fissa di 10 euro a operazione. Inoltre la tecnologia avanzata di IG Markets permette anche di risparmiare, dando accesso ai circuiti borsistici alternativi e beneficiando dei migliori prezzi di mercato. Chiunque può trasformarsi in un vero trader con IG Markets. Demo gratuita su www.igmarkets.it. Prima edizione. Sono le 6:16:05. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque, vediamo che cosa, quali scelte fanno i quotidiani oggi in edicola dal lato delle aperture e appunto delle scelte di impaginazione, per così dire. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera che decide di puntare, poi ne parleremo più avanti. Avete sentito poco fa l'intervista con il console onorario alle Seychelles, ne riparleremo più avanti e ci ricollegheremo con lui naturalmente se riusciremo, perché da quel che abbiamo capito in questo momento c'è una certa confusione, tra l'altro da quel che capiamo stanno arrivando delle navi che potrebbero già aver iniziato a trainare la Costa Allegra verso un'isola, almeno questo è quello che riferisce l'Associated Press, e a trainarla sarebbe una nave francese. Vediamo se ci saranno conferme a questa notizia. Naturalmente veniamo all'apertura del Corriere della Sera. 1000 passeggeri alla deriva. la Costa Allegra senza motori dopo un rogo in sala macchine. Nave a largo delle Seychelles, a bordo 212 italiani, primi soccorsi appunto da un peschereccio. Il racconto è a firma di Fiorenza Sarzanini e ore 10.39 tutti sui ponti, poi il buio e la vignetta di Giannelli che ovviamente non può che far riferimento anche alla vicenda della Costa Concordia, quindi mette insieme le due cose. C'è una famiglia che va verso l'ufficio prenotazioni della Costa Crociere, c'è un cartello che lo indica, ma sulla strada per l'ufficio prenotazioni c'è un gatto nero. Questa è la vignetta di Giannelli a commento del brutto momento per la costa, evidentemente. L'editoriale di prima pagina è a firma di Antonio Polito ed è dedicato invece alle vicende che riguardano l'Europa. Coalizione più debole per Merkel è il titolo. Il titolo è Il male greco è anche tedesco. E perché scrive questo Antonio Polito? Perché nota che per la prima volta da quando è cominciata la crisi dell'euro Angela Merkel ha perso la sua maggioranza politica al Bundestag. Dei 330 voti di cui dispone il centrodestra, solo 304 hanno votato sì al secondo salvataggio della Grecia, 7 in meno dei 311 seggi che fanno la maggioranza assoluta. La cosa è passata solo grazie al voto favorevole ma molto critico dell'opposizione socialdemocratica. Sulla TAV è un a centro pagina sono due foto e una è quella di una protesta alla stazione, supponiamo sì esattamente, sono le proteste alla stazione Termini a Roma con la gente in mezzo ai binari a bloccare il passaggio dei treni, e l'altra è la foto di Luca Abba, appunto uno dei leader del movimento Notav in Val di Susa, mentre è arrampicato sul traliccio e adesso in coma. Un commento a firma di Marco Imarisio è Le parole mancate. A centropagina però il titolo del Corriere della Sera è economico: le regole del fisco ai sindaci, scovare gli evasori. Nel frattempo si tratta sulle liberalizzazioni, sia lici sulla chiesa, scuole escluse, il governo contro Eurostat sui salari. Questo il quadro dal Corriere della Sera, che dedica anche un commento alla vicenda di Buffon e il gol oltre la linea. Ne parleremo più avanti, anche naturalmente della vicenda Buffon. La Repubblica apre con le consulenze d'oro, sta cavalcando Repubblica alcuni dati che emergono, alcune notizie che emergono da analisi e studi della Corte dei Conti. Consulenze d'oro per 2 miliardi è il titolo. Denuncia della Corte dei Conti: sproporzionate inutili su taxi e farmacie, ancora scontro. Incidenti sul lavoro, allentati i controlli. Ci mette insieme Repubblica anche le altre questioni. Liberalizzazioni, domani la fiducia. IC Chiesa: salve le scuole, no profit. Anche qua un titolo dedicato alla Costa Allegra, paura alle Seychelles, altra costa alla deriva dopo un incendio a bordo. Commento di prima pagina a firma di Piero Ottone, il cui titolo è già di per sé esemplificativo: la Concordia e le sue sorelle, quei nomi dal destino rovesciato. E quindi la Costa Concordia, la Costa Allegra, naturalmente, e non solo. C'è una vicenda che riporta in prima pagina Repubblica, sulla quale fa un titolo dedicato alla capitale, ed è racket licenze sotto accusa ai vigili di Roma, è indagato il comandante. E questo il quadro, questo è il quadro per quanto riguarda la Repubblica. Naturalmente vi stiamo omettendo tutti i titoli sugli Oscar, perché ne abbiamo parlato direi parecchio nella mattinata di ieri, che come sapete la notte degli Oscar si è conclusa poco prima delle 6 del mattino, insomma ne abbiamo parlato lungamente, quindi ve lo stiamo omettendo, ne saprete sicuramente. La Stampa è un incrocio di titoli forti. Quello più forte che troviamo in prima pagina è questa foto di Luca Abba sul traliccio, grande foto, con il via ai lavori per l'ampliamento del cantiere, le barricate sull'autostrada e la Valsusa isolata. E il titolo è No TAV giù dal traliccio, folgorato durante la protesta contro gli espropri, è grave. E poi naturalmente ci sono le reazioni, manifestazioni, blitz e scontri in tutta Italia. Per quanto riguarda invece l'economia, il titolo che sceglie la Stampa è sull'IMU alla Chiesa. Il governo salva le scuole cattoliche, sono esenti gli istituti non commerciali, il plauso della CEI che dice direzione giusta. Ma è interessante anche la vicenda della quale si occupa la Stampa e che riguarda la scelta leghista, o meglio leghista, la scelta di un presidente di regione in questo caso, di Luca Zaia, presidente della regione Veneto, che dice niente soldi a Roma dal Veneto, il presidente ordina di non trasferire il 50% della liquidità come vuole l'esecutivo. Ovviamente c'è anche un titolo dedicato alla vicenda della Costa Allegra in questo caso, a fuoco la Sala Motori, nave della Costa alla deriva nell'oceano, i servizi all'interno parlano uno del salvataggio nella notte, la folle corsa dei rimorchiatori, nel frattempo noi vi confermiamo che la nave Costa Allegra, come vi abbiamo detto 10 minuti fa, è stata rimorchiata da un peschereccio francese e viene portata nell'isola più vicina, l'isola di Desroches, se non pronunciamo nella maniera sbagliata. La Stampa dedica anche un titolo alla compagnia a Genova, la rabbia infinita della compagnia, una maledizione, amarezza negli uffici dove ora spunta anche l'incubo pirati. Anche il Messaggero parla di incubo, ma è dedicato a quello che è successo alla nave. Torna l'incubo, un'altra nave Costa alla deriva, incendio a bordo dell'Allegra, al buio 1000 passeggeri. E poi un racconto di prima pagina dedicato all'industria di settore, l'industria delle crociere tra business e incidenti. Il titolo forte però di prima pagina del Messaggero è dedicato alle liberalizzazioni, alle difficoltà, come dire, che si stanno incontrando. Taxi e farmacie, si cambia ancora. Monti sulle scuole cattoliche, niente ICI per quelle senza profitto. Trattativo oltranza sul decreto liberalizzazioni, la Lega attacca sulla tesoreria unica, ed è quello di cui vi parlavamo prima quando si parlava appunto di Zaia. Naturalmente un titolo sugli Oscar, naturalmente un titolo sui No TAV, ma un titolo dedicato anche a De Rossi. Come sapete, questo per il quotidiano romano, perché tutti parlano di Buffon, e giustamente il Messaggero parla anche della Roma. La rabbia per l'esclusione di De Rossi, che cosa è successo? Che è arrivato in ritardo e quindi Luis Enrique l'ha escluso, non l'ha messo in campo. De Rossi e la rabbia per l'esclusione, solo un ritardo, non chiedo scusa. Veniamo al Sole 24 Ore, apertura dedicata ai titoli di Stato italiani. Titoli di Stato italiani la cui asta ieri è andata bene, e parliamo dell'asta dei semestrali. Bene l'asta Botti, il tasso cala all'1,2%, e il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi che dice l'Europa è stabilizzata, la recessione è tenue, ve ne abbiamo parlato di ieri anche quello, e Grilli e Visco che dicono torna l'interesse sull'Italia. Il Tesoro colloca tutti i 12,25 miliardi di titoli. 3 mesi fa il rendimento era oltre il 6%, borse deboli dopo l'esito deludente del G20, questi i titoli. Allora, ci segnala anche un C'è anche una bella grafica del Sole 24 Ore che illustra l'andamento delle aste dei titoli di Stato negli ultimi mesi, mettendo a confronto novembre con febbraio e facendo anche la variazione percentuale del rendimento, ossia di quanto è sceso il rendimento. Per quanto riguarda i semestrali, rispetto a novembre il rendimento è sceso dell'81,5%, per quelli a 12 mesi del 63%, per quelli a 3 anni del 56%, per quelli a 10 anni di circa il 20% o poco meno. Per quanto riguarda i commenti di prima pagina, sono a firma di Donato Masciandaro, che parla di credito e crisi, gli errori inglesi e la via italiana, e di Marco Simoni, politica e crisi, la fiducia dei mercati va meritata fino in fondo. Si parla anche di credit crunch. Come sapete, il Sole 24 Ore sta conducendo un'inchiesta, una battaglia su questo tema. Moratoria sui debiti, accordo tra banche e imprese, raccontano Chiellino e Picchio a pagina 45 del quotidiano. E poi a centropagina su ICI e scuola c'è l'intesa, la Marcegaglia che dice CISL apre sull'articolo 18, Monti sui salari, non siamo gli ultimi, e qua si cita il comunicato del quale vi parlavamo poco fa. Titoli anche dedicati alle altre vicende, ossia quella della Costa Allegra, ma con anche dei tagli economici come quello dato da Marco Valsani, e il rischio contagio per le holding dei mari e il peso dei disastri sui conti del gruppo a firma di Raul De Forcade. E poi la Valsusa con il leader Notavi in gravi condizioni, le proteste in tutta Italia. C'è anche un pezzo in Marco Ludovico sulla strategia degli anarco-insurrezionalisti. Questo è il quadro dalle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Sono le 6:29 minuti e 10 secondi. Ci ritroviamo tra un attimo con il GR. Prima edizione. Sono le 6:34 minuti e 20 secondi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. E l'Italia in diretta, l'Italia che racconta, quella di Italia in controluce, oggi 28 febbraio, prima puntata nell'edizione del mattino. Quante sono le altre Ethernet? Quante sono le altre società coinvolte in processi per esposizione da amianto? Il reportage di Katia Caramelli. Il Tribunale di Torino, visti gli articoli 533 e 535 Codice del Procedura Penale, dichiara De Cartier, De Marchen, Jean-Louis, Eschmidain e Stefan colpevoli di reati loro contestati al capo A della rubrica. Una sentenza, quella Eternit Casale Monferrato, che per tante vittime significa giustizia, sia pure tardiva, ma che per altre ha il sapore amaro della beffa. Così viene vissuto il verdetto del Tribunale di Torino, che ha dichiarato la prescrizione dei reati relativi alle fabbriche di Rubiera in provincia di Reggio Emilia e di Bagnoli. Per chi si è ammalato o ha vissuto il dolore per la perdita di un familiare a Bagnoli è difficile capire. L'avvocato Vincenzo Cinquegrani, rappresentante di 14 parti civili. Bagnoli, anni fa, prima dello smantellamento, aveva una fabbrica di Eternit, quindi dove si produceva questo materiale che ha cagionato, come a Casale Monferrato, anche a Bagnoli, la morte attraverso asbestosi, attraverso il tumore ai polmoni di più di 1000 persone, perché siamo soltanto come parti civili in questo processo 4500, al di là poi delle persone che sono decedute e che non hanno potuto o non hanno saputo poi di questo processo, o perché effettivamente sono deceduti tanto tempo fa e non avevano più la possibilità di costituirsi in questo processo. Perciò mi permetto di dire di penso più di 4500 persone morte. C'è stata la sentenza a Casale Monferrato di condanna anche pesante per i vertici dell'Eternit, ma sì, non così per le vittime di Bagnoli, perché ritiene il Tribunale di Torino che per quanto riguarda i reati commessi dagli imputati si sarebbero prescritti, perché ritengono che tutti i reati commessi fino al 1999 sono prescritti, perché applicano una prescrizione che, a modesto avviso di chi parla, non maturava oggi, ma sarebbe dovuto, cioè il reato si sarebbe dovuto prescrivere quantomeno nel 2016, quindi da qui a 4 anni. Adesso aspettiamo una motivazione per vedere che calcolo ha fatto il Tribunale di Torino, per poi riservarci dei motivi di appello. Quindi farete ricorso. Lei quante persone rappresenta? Io rappresento 14 parti civili. C'è molta rabbia. C'è molta rabbia, ma più che rabbia c'è delusione. Delusione e amarezza. Non si spiega che questa discrepanza, questa differenza tra un morto di Casale Monferrato ed un morto di Bagnoli. Per le persone di Reggio Emilia e di Rubiera hanno riservato lo stesso trattamento di Bagnoli. Pensiamo che ci potrebbe essere un Eternit bis. Era il reportage di Katia Caramelli sulle altre Eternit. Torniamo oggi alle 13.30 con il reportage più lungo su Radio 24. Allora, sono le 6:38 minuti e 21 secondi, siamo in attesa, ci stiamo per collegare con il console italiano alle Seychelles. Mi dicono che dobbiamo rimanere un attimo in attesa, come sapete le notizie sono quelle che riguardano la Costa Allegra, la nave della Costa Crociere, si sono rotti i motori, era alla deriva, a quanto pare adesso è stata trainata, è stata presa da un peschereccio francese. Buongiorno a Claudio Izzi, console onorario d'Italia a Mahé, siamo nelle Seychelles, buongiorno console. Buongiorno a lei. Come sentite c'è un po' di ritardo, ma naturalmente è una questione di collegamenti, non ve ne preoccupate, non sono problemi radiofonici. Allora, console, ci dà conferma, insomma, la nave dovrebbe arrivare a breve su un'isola delle Seychelles? Sì, sì, posso confermarglielo, quello che ha detto è corretto, la nave in questo momento è già in fase di rimorchio da un peschereccio oceanico che batte bandiera francese. Un secondo peschereccio arriverà molto presto in prossimità della nave e nel primo tarda mattinata, primo pomeriggio dovrebbero arrivare anche 2 rimorchiatori inviati dall'autorità portuale delle Seychelles, che ovviamente prenderanno in consegna la nave per quanto riguarda la fase di rimorchio, avendo più manovrabilità e poteri e potenza di rimorchio, appunto. Quindi dovrebbero eventualmente accelerare, anche se di poco, la velocità del convoglio. Orario previsto di arrivo alle Seychelles della Costa Allegra, console, e che tempi ci sono per, come dire, per il ritorno, perché immaginiamo che ci sarà un ritorno in aereo per i nostri connazionali. Sì, guardi, il programma che sembra essere veramente ben coordinato tra la nostra unità di crisi, la Capitaneria di Porto e le autorità locali, prevede che ci sarà un arrivo all'isola di Deroche, che è una delle isole coralline nella parte sud dell'arcipelago delle Seychelles, probabilmente tra un giorno e mezzo. A quel punto dall'isola di Deroche verranno poi trasferiti i passeggeri, dopo ovviamente una qualche accoglienza, verranno poi trasferiti qui all'isola di Mahé, l'isola principale, tramite voli di compagniere locali e tramite probabilmente anche il servizio di un catamarano veloce che è utilizzato qui per servizi turistici. Quindi si prevede l'arrivo qui a Mahé, che è l'isola principale, nel giro di un paio di giorni da questo momento. Ok, quindi in realtà è un'operazione di evacuazione, per così dire, piuttosto lunga e complessa, perché le Seychelles sono, da quel che ho capito, un arcipelago piuttosto sparso. Esatto, è corretto. Ovviamente la distanza della nave dall'isola più vicina che ovviamente consentirà poi l'atterraggio e il decollo di questi aerei, è comunque un'evacuazione fatta in maniera corretta, è in questo momento a circa 120 miglia dalla posizione della nave, 115 forse da qualche ora, visto che c'è appunto questo rimorchio in corso. Questo ovviamente ad una velocità di tre nodi, che è quella attuale del convoglio, richiederà un certo numero di ore. Grazie dunque a Claudio Izzi, console onorario d'Italia a Mahé, nelle Seychelles, per essere stato con noi, e buona giornata. Buona giornata, buon lavoro anche a voi. E noi adesso ci occupiamo di calcio, o meglio di calcio, di questo Milan-Juve che sembra non finire più, nel senso che c'è stata all'inizio del fine settimana e ancora ne parliamo, per parlare di Gigi Buffon. Dario Ceccarelli, buongiorno. Sì Simone, è una polemica infinita che riguarda un giocatore peraltro molto rappresentativo, perché Buffon è, diciamo, il numero uno, è il capitano nazionale, è un portiere che ha un ruolo che va anche al di là proprio del fatto tecnico. In questo momento c'è chi lo giudica lo spaccone, quello che poi fa anche un po'. Perché lui che cosa ha detto sostanzialmente? Lui sostanzialmente ha detto che non avrebbe mai ammesso che era gol, questo famoso gol fantasma di Muntai, perché così avrebbe danneggiato la sua squadra, e ha proprio detto: non avrei mai affossato la mia squadra, e che chi lo critica fa solo dell'ipocrisia, una retorica vilente, non mi interessa quello che dicono gli altri. E lui è stato criticato in particolare dal numero uno degli arbitri, Nicky, che ha detto che è un cattivo esempio, sì, un modello, sì, sì, sbagliato, e poi da Zeman, che non si tira mai indietro quando, sì, può dare una botta alla Juventus, che ha detto che non avrebbe, se anche ammetteva che era gol, non avrebbe fatto male a nessuno, perché il risultato era ormai dichiarato. Però un po' di ipocrisia c'è, cioè, insomma, è chiaramente ci sono due partiti. Uno, quello che dice Zoff è stato signore, Zoff, perdona, mi è venuto in mente Zoff perché compie 70 anni, il suo anniversario, è interessante un parallelo. No, Buffon è stato, diciamo, sincero, e questo viene da alcuni apprezzati, perché dicono tutti avrebbero fatto così. E ci può stare, però va anche detto che è un giocatore particolare, il capitano della nazionale, è stato ricevuto al Quirinale da Napolitano, cioè è diventato volente o nolente un modello, e quindi una dichiarazione di questo tipo innesta una polemica di questo tipo. Meglio un po' di ipocrisia, pensarla magari, ma starsene zitti tutto sommato. Ma proprio perché ha questa funzione di rappresentanza, va anche detto che ai calciatori ormai gli si chiede un ruolo che va anche al di là delle loro funzioni, nel senso che lì si vorrebbe perfetti, bravissimi, modelli di comportamento che neanche i politici, e forse alla fine bisogna ricordarsi che comunque sono ragazzi, cioè Buffon ha 34 anni, però insomma la maggior parte dei casi sono ragazzi che non hanno neppure perfino chiuso un percorso di crescita esistenziale, per cui io posso capire che uno sportivo dica c'è un arbitro, lì apposta, non se ne è accorto, devo essere io a imbeccarlo, però resta il fatto che Buffon ormai è qualcosa che va oltre il calcio, certo, stesso, e quindi capisco le polemiche. Però io dico la verità, mi sarebbe piaciuto di più che avesse detto ma sì, in effetti era entrata, poi dopo c'è l'arbitro, decida lui, ecco, piuttosto che tutta sta sì, è un va bene la sincerità, però alla fine insomma resta un po' di amaro in bocca, e ho l'impressione che ne parleremo a lungo. Grazie a Dario Ceccarelli, buona giornata. Noi adesso ci sentiamo la viabilità e poi parliamo di un museo nell'Interland napoletano che ha più di qualche problema. Prima edizione. Cosa parliamo adesso? Parliamo del Contemporary Art Museum a Casoria, siamo alla periferia di Napoli. Che cosa è successo? È successo che ieri, davanti ai dipendenti del museo, il direttore e fondatore Antonio Manfredi, il museo, lo ricordiamo, ospita opere per un valore complessivo di 10 milioni di euro, insomma ha detto non ce la facciamo ad andare avanti, abbiamo E cosa hanno fatto? Hanno dato fuoco ad un'opera d'arte, la prima di una serie di queste opere d'arte alle quali si vuole dar fuoco, tra l'altro un'opera d'arte dello stesso Manfredi. Problemi naturalmente di vario genere, tagli alla cultura, camorra, ne abbiamo parlato con lui proprio poco fa, ascoltiamo l'intervista. Che cosa succede intorno al nostro museo? Innanzitutto, che cosa sta succedendo in Italia? Perché i tagli alla cultura sono evidentissimi, e con la recessione e con i tagli economici la cultura sta morendo, questa è la verità. E poi tutto diventa più grave quando si arriva nell'hinterland napoletano, ovviamente, soprattutto per uno spazio che ha dei problemi in un territorio che è affetto da gravi problematiche sociali. Ecco, questo è quello che poi ti porta a fare delle azioni forti e importanti per poter dare la possibilità a questo spazio di sopravvivere. Ecco, ma non è semplicemente, mi scusi, una questione di mercato. Molto semplicemente, per una struttura come la vostra, a Casoria non c'è mercato. La cultura deve avere mercato? Voglio dire, la cultura, un centro che sia un centro legato anche al sociale, soprattutto con le problematiche che esistono in quel territorio, ha bisogno del mercato, o invece piuttosto deve essere un luogo dove la gente possa vedere cose diverse. Ecco, vede, la cosa straordinaria è quando arrivano i bambini delle scuole elementari in visita al museo. Loro vedono qualcosa di completamente diverso. Qualcuno dice pensa di stare in una navicella spaziale. Noi è questo quello che vogliamo, non è questione di mercato. Ecco, ma c'è un problema specifico di camorra al di là dei tagli alla cultura, che quelli, come dicevamo, insomma, li subiscono un po' tutti. È chiaro che nell'hinterland napoletano le difficoltà sono più forti, così come probabilmente sono più forti anche in altre zone d'Italia, ma avete un problema specifico di camorra? Guarda, il problema specifico di camorra è legato proprio, lei diceva giustamente, questi tagli sono in tutta Italia, ma il problema è questo: se io sto a Gallarate o voglio dire nel Varesotto e c'è un museo d'arte contemporanea con una imprenditoria sana alle spalle, o almeno che sopravvive abbastanza bene, c'è la possibilità di avere anche delle sponsorizzazioni private. Quando uno spazio come quello nell'Interland napoletano realizza invece mostre sulla camorra, sugli africani, sull'Africa, su varie problematiche sociali, diventa poi difficile andare a chiedere sponsorizzazioni private a delle aziende, società che spesso sono in mano alla camorra. Poi sull'atto di ieri, voi avete di fatto dato fuoco, distrutto un'opera d'arte che, se non sbaglio, tra l'altro è sua. Avete intenzione di proseguire? Sì, la prima opera che abbiamo distrutto era la mia, che avevo presentato alla Biennale di Venezia. Ovviamente, essendo il direttore e anche uno dei mille artisti all'interno del museo, non potevo fare a meno che, ecco, se iniziare ovviamente dalla mia, dare l'esempio. Poi abbiamo un'intenzione, sì, certamente. Noi, a partire da aprile, se le cose non cambiano, ma vede, inizieremo con le altre mille opere, ovviamente una al giorno, ma ci saranno poi a questo punto quasi 3 anni a disposizione per poter distruggere 1000 opere. Vede, il problema non è il distruggere le opere, il problema è che quando non c'è l'attenzione della politica e della società alle spalle di uno spazio che vive nell'Interland napoletano, le opere si autodistruggono. Noi non facciamo altro che mettere in scena questa azione, insomma. Ed è veramente tutto per prima edizione, un ringraziamento a Viola Bottoni in redazione, Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, una buona giornata, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.